Sono stato convocato. Sono stato convocato. Che vuol dire che sei stato convocato? Ma come cosa vuol dire? Ma ci vuoi andare? Dimmi che devo girare, io giro. No, devo andare. Se ti convocano tu vai. Possiamo cominciare! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Se lo meritano tutti, secondo me, ci siamo meritati comunque per tutto l'anno, per tutto quello che abbiamo fatto. Mi dispiace comunque molto per Trento perché hanno fatto una stagione incredibile, però se io guardo comunque quello che abbiamo fatto noi, abbiamo lavorato bene, abbiamo fatto in Europa un super campionato e qua in Italia ancora meglio, quindi fantastico veramente. Sapevo che sarebbe stato difficile, però un grande gruppo di ragazzi, penso che abbiamo lottato dal primo minuto all'ultimo, complimenti a Trento veramente, ha dato battaglia in tutte le partite, grande merito a loro ovviamente, una squadra che vincerà prima o poi perché è un grande club, cercherà di sicuramente rinforzarsi per vincere. Quest'anno è toccato a noi, è stata veramente una cavalcata bellissima. Venezia celebra la vittoria dello scudetto 2017. Volano coriandoli tricolori nel cielo della Palatrento. Beh ragazzi, non so se Walter De Raffaele abbia fatto davvero il tuffo nel Canal Grande, di sicuro avrà dormito poco, che fosse un... Ciao Walter. Ciao, buongiorno. Complimenti, campione d'Italia. Grazie. Dormito niente, lo so, immagino. Il tuffo un po' più avanti, perché prima vado a comprarmi la muta. Allora, che Walter De Raffaele fosse un grande allenatore, un bravissimo allenatore, io l'ho capito tanti anni fa nella mia città, Pavia, dove ci siamo conosciuti. Sì. È vero. Che potesse entrare un giorno nella... Beh, lasci usare i paroloni, Walter, nella leggenda del basket italiano, l'abbiamo scoperto ieri sera dopo gara 6, vinta a Trento, 74 anni dopo lo scudetto in Laguna. L'ultima volta era stata nel 42-43, quando né io né De Raffaele eravamo nati. Esatto. I playoff erano una cosa da ritorno al futuro, esatto. Si giocava a girone unico, alla misericordia. Si usavano le pallonesse, insomma, esatto. È qualcosa di diverso, è qualcosa di diverso, siete qualcosa di diverso, Walter. Sì, beh, innanzitutto Pavia è sempre nel cuore, questo va detto. E detto questo, è una grande soddisfazione, credo sia un premio a un lavoro da parte di tutti, è un'emozione enorme perché comunque non era programmato. Non eravamo favoriti, questo è importante. Abbiamo avuto un cammino, devo dire, costante in campionato, stando sempre tra le prime posizioni, e contemporaneamente abbiamo avuto una stagione straordinaria in Europa. Non ci scordiamo che questo club sono 3 anni che sta al vertice, perché comunque abbiamo fatto 2 semifinali e quest'anno lo scudetto, quindi prima abbiamo sempre bazzicato, addirittura 4 anni fa non abbiamo fatto i playoff. Sì, frutto di un lavoro, questo scudetto è frutto di una progressione, frutto di una costruzione. Sicuramente di una società solida, di una proprietà solida che permette di programmare, di mantenere un gruppo negli anni, è merito... Come io dico sempre, di questi giocatori, perché comunque alla fine in campo vanno loro, io ho avuto tutto da loro, ho avuto tutto tecnicamente, soprattutto umanamente ho avuto la disponibilità a fare delle cose diverse, a giocare anche in maniera diversa, prendendoci all'inizio anche tante, tante critiche, perché come sai... Vabbè, ma quello è normale quando prova a fare qualcosa di diverso dagli altri. Esatto. E questo però è anche il segreto che ti porta dove siete arrivati, fare qualcosa di diverso dalle cose standardizzate. Tu in esatto. questo ti conosco professionalmente da anni, so che sei un maestro, ma comunque... Al di là di tutto, siete passati dal buco della serratura in gara 5. Io lì l'altro giorno, scrivendo un servizio, dicevo: ok, questo è il buco della serratura, e ciò mi induce a pensare che possa essere un segno del destino, perché nei segni del destino io nello sport credo, nella vita meno. Sì, è naturale che gara 5 è stata una partita chiave, perché abbiamo sotto rincorso tutto tutta il periodo, tutta la partita. E il merito naturalmente nostro è stato quello di star sempre lì e di esprimere una grande difesa nel quarto quarto e poi portarla via con una magia di Bramos. Ci ha girato proprio psicologicamente la serie, anche se appunto vorrei spendere due parole per Trento, che è stata una grande avversaria, meritatamente in finale, ben allenata. La bellissima finale. Sì. Nata nel 96, quindi... tra l'altro, Trento, a proposito di storie veloci, quando, cioè, esatto. 42 anni dopo lo scudetto di Venezia, è nata Trento. Esatto. Ecco, quindi già la dice lunga su che finale fosse questa tra noi e loro. Sì. E quella partita lì ha girato certamente un po' l'inerzia, anche mentale, perché quando strappi una vittoria inseguendo... ti porti dietro una carica emotiva, e infatti ieri gli occhi dei ragazzi erano occhi di chi ci credeva. Io ho detto la parola è trust, perché comunque trust. Bisogna crederci, perché è una cosa importante credere nei compagni, nel sistema e quindi in se stessi, è e credo che al di là della retorica e per questo gruppo, che è stato un gruppo che è passato in mezzo a tanti problemi con 71 partite in una stagione, rimanere sempre lì, coronare una stagione credo fantastica. Io credo che, comunque l'Europa e la fatica ti rendano forti, che quei viaggi ti rendano forti, ti rendano squadra, ti rendano gruppo e ti portino a questi risultati. Tra l'altro ti dicevo, credo nei segni del destino, a parte che Tonut finalmente, stanotte non ha dormito, adesso lo sto vedendo in TV, stanotte non ha dormito per un'altra notte, era da domenica che non dormiva, speriamo di mandarlo a dormire. Dicevo, io credo nei segni del destino, anche perché dovete sapere che il papà di Tonut Alberto e anche Walter De Raffaele, che ieri sera è stato, sai dove voglio arrivare, è stato ricompensato dal destino, giocavano nell'Enicam Livorno del famoso scudetto assegnato nello stanzino degli arbitri mezz'ora dopo che in quello spogliatoio di Walter De Raffaele si stava festeggiando certo. il primo e storico scudetto livornese, perché tra l'altro, segno del destino, Walter De Raffaele è livornese come Allegri, da cui ha già ricevuto messaggi. Esatto, sai, esatto. Ci sono e come devo dire anche Alessandro Ramagli, che ha vinto con la Virtus. Ecco, Alessandro Ramagli che ha vinto nella Virtus livornesi... e Bucci era il coach che abbiamo avuto ospite ieri, era il coach di quella squadra. Insomma... che ho sentito continuamente. Come? Ho sentito continuamente, quasi giornalmente, Alberto. Sì. Sì. Perché è una persona squisita che io porto nel cuore, ma ieri con Alberto ci siamo guardati a lungo, è naturale che quella è stata una finale pazzesca, che ha avuto solo il merito nella sconfitta di farcela ricordare per 30 anni, quello è stato l'unico merito, per il resto, come ho detto ieri in conferenza stampa, sono fortunato, ho giocato una finale da giocatore, ne ho vinta una da allenatore, non capita tutti. L'altra, 30 anni dopo l'altra l'avevi persa? Esatto, sì, è vero, scusa. Perché questo è un no, l'altra l'avevi persa? È una domanda? Per me no, però sai, realmente questo. Questa è una delle cose su cui... Come dice il mio capitano Alessandro Fantozzi, noi l'abbiamo vinto. Guarda, quella è una delle cose che rimarranno nella leggenda dello sport, sport italiano. Assolutamente, battute a parte, anche quella è stata una cosa che, ti ripeto, è andata così, è stato l'unico modo perché la gente se la ricordasse per 30 anni. Magari in un altro modo non se la sarebbe ricordata nessuno, ha vinto Milano meritatamente, lasciamola lì. Sai, sarebbe stato l'unico scudetto di Livorno. Quello è vero, sarebbe stato grande. Lì è stato l'inizio della fine di Livorno, questa è la verità. È stato l'inizio della fine di Livorno. L'inizio della fine di Livorno è stata... No, la fine di Livorno è stata quando c'è stata la fusione tra le il delitto colposo. Lì è stato l'omicidio del basket di Livorno, esatto. Perché erano... Beh, basta vedere l'ultimo derby di Serie C per la promozione tra PL e Libertas, tre partite di Serie C, 3500 persone di mezzo. Al vecchio Pala Allende, lo so. Walter, senti. Sei preparatissimo. Sono abbastanza preparato. Dicevo, mi reputo fortunato e cerco di viverla con molta tranquillità, perché credo che bisogna assaporare le cose belle che arrivano, perché poi non si sa mai cosa ti serve alla vita. E quindi intanto mi assaporo questa cosa fin quando realizzerò, perché per ora sono ancora in giro con l'adrenalina. Sì, ci credo. Senti, magari cambiamo acqua, ma dal Canal Grande a Livorno forse è meglio. Domenica sono già al mare. Domenica sei già al mare. Quando organizzi come Allegri la celebrazione? Lui l'ha fatto l'altro giorno. Guarda, devo trovarmi sicuramente con tutti, perché abbiamo un po' di allenatori da trovarci, anche con Max. La cena di celebrazione comunque va fissata. La faremo. Beh, vengo, mi prenoto. Promesso. Va bene. Complimenti, Walter Drafes, coach campione d'Italia del basket. Ciao. Grazie mille. 800240024 il numero verde, perdonatemi, ma mi piacciono da morire queste storie che si intrecciano, questo destino che guida molti fili e molte cose, compreso ovviamente il calcio. Tra poco cominceremo a parlare con arriverà Pierluigi Pardo, ma arriverà anche Marco Amelia, che giocava in un under 21 storica. Ci sentiamo subito dopo il traffico. Tutti convocati. Tutti convocati. Due giocatori da valutare, perché non hanno recuperato in base alle nostre rilevanze del nostro staff, quindi 24 ore mi daranno ancora la possibilità di capire chi potrà scendere in campo e chi no. Da qui farò le mie scelte, ci potrebbe essere qualche cambio sicuramente. Al di là di giocatori che metterò in campo, servirà più velocità, sì, rispetto all'altra sera, soprattutto rispetto al primo tempo e l'altra sera, dove eravamo non molto veloci nel giocare come siamo abituati a fare, quindi indipendentemente da chi metterò in campo abbiamo bisogno di più velocità, perché ci vengono ad aggredire in maniera molto intensa. Alle 18, questa era Gigi Di Biagio, naturalmente, CT dell'Under 21, che gioca stasera alle 18 una partita da vincere a tutti i costi contro la Repubblica Ceca. Ciao Pierluigi Pardo, un saluto particolare a Pierluigi Pardo. ciao. Marco Amelia, fai un saluto particolare a Pierluigi Pardo, per favore. Un saluto grande Pierluigi. Un saluto particolare. Bene. Tutto bene. Marco Amelia, a proposito di storia di Livorno, abbiamo sentito pochi istanti fa Walter De Raffaele, che ha vinto lo scudetto del basket a Venezia, però lui è livornese come Max Allegri. Marco Amelia a Livorno ci ha giocato, insomma un sacco di fili che si intrecciano, e io ci credo in tutte queste cose. Però Marco Amelia, come Pardo sa perfettamente, faceva parte di una Under 21 storica che vinse nel 2004 in Germania che affronteremo nella partita, l'ultima partita del girone, quella che varrà, io spero, la semifinale, 3-0 alla Serbia, vinse l'Europeo Under 21. Banale chiederti quali similitudini, Marco. Sì, intanto fu un grande europeo per noi, ma in realtà proprio per tutta la federazione, per la nazionale in sé per sé, perché l'Under 21 comunque aveva una storia di vittorie, mancava il titolo e forse sulla carta eravamo non una top squadra, però poi all'interno dello spogliatoio invece sapevamo di essere forti, soprattutto nei valori morali. E siamo arrivati a vincere quell'europeo, che poi ci ha dato soprattutto la qualificazione anche all'Olimpiade, certo, dove poi abbiamo vinto il bronzo. Dove avete vinto il bronzo, ultima medaglia, come sottolineo tutte le volte Gentile, vinta dall'Italia dell'Under 21. E come sa benissimo Pierluigi Pardo, in quella Under 21 c'erano 5 giocatori, tra cui Marco Amelia, che 2 anni dopo sarebbero diventati campioni del mondo con la nazionale maggiore di Lippi. No, Pier? Sì, beh, l'abbiamo ripetuto tante volte in questi giorni. La sensazione è che, oltre al fatto che ho perso la voce, non ho capito perché nell'ultima mezz'ora, ma questo è un mistero. Sarà il telefono. No, oggi golf, sai, sport troppo di contatto fisico. Certo, sta chiaro. Sono quegli sport pericolosi, gli sport estremi. No, a parte le battute, sì, la sensazione è che questa nazionale abbia un bel ciclo potenziale davanti. Ce lo auguriamo. Ce lo auguriamo, lo diciamo quasi sottovoce, perché poi sappiamo quanto è importante non esagerare, non sovraccaricare questi ragazzi di aspettative, però insomma le qualità e il talento ci sono. E a proposito di talento, ti devo chiedere, ma se tu fossi Donnarumma, al netto di tutti i discorsi sulla gratitudine, tutti i discorsi etici, da un punto di vista di pura convenienza, se tu fossi lui, visto che adesso qualche anno in più ce l'hai, che faresti? L'ho detto già in passato, qualche giorno che mi chiedono, io avrei comunque firmato, però c'è da dire anche per Luigi che forse probabilmente non è che lui non voglia firmare, è che è stato un po' fastidioso, credo, l'out-out da parte della società, cioè o firmi subito oppure niente, purtroppo è stato detto in un momento dove il ragazzo è concentrato sull'Under 21. Io avrei aspettato la fine dell'Europeo Under 21 e poi mi sarei messo seduto con tutte le parti, con toni giusti, anche perché dal mio punto di vista Donnarumma ha veramente pochi motivi per andare via dal Milan. Qui ha tutto, è circondato di persone che gli vogliono bene, è circondato di un ambiente che gli può perdonare anche un errore. Esatto, domani se dovesse andare altrove lo pagherebbe. A 18 anni ha tutto il tempo di crescere, però dal mio punto di vista c'è anche la possibilità di ricucire questa situazione proprio facendo, aspettando la fine dell'Europeo, mettendo tutti seduti a tavolino con i toni giusti, con i toni da Milan, con i toni di una società che a livello mondiale è forse la più conosciuta per quello che riguarda i club italiani, e poi lì si fa una proposta. Gigio, io sono convinto che abbia tutta la voglia di restare a Milanello e di giocare per il Milan, anche perché poi secondo me lì poi le condizioni economiche contano poco o nulla, contano più i modi, sentirsi esatto, considerato come ragazzo, come uomo, e soprattutto il rispetto che ci deve essere nei suoi confronti. Marco, nessuno è tutto sacrosanto quanto dici, sì, e che sostengo da giorni. Insomma, è chiaro che andando via, anche guadagnando molti soldi, avrebbe pressione addosso, non ti sarebbe permesso di sbagliare. Nessuno gli chiede di fare la bandiera, di restare a vita al Milan, soltanto di inchiostrare un contratto che converrebbe a tutti. Voglio farvi sentire cosa ha detto Mihajlovic a proposito, papà calcistico, ma Roma, inutile quasi ricordarlo, colui che l'ha lanciato a 16 anni in Serie A. Cosa ha detto su questa vicenda? Io posso solo dire che Gigio è fortissimo, ma è sempre un ragazzino di 18 anni, a quale io voglio molto bene. E per diventare campione lui deve ancora crescere. E farlo in una società dove tutti lo vogliono bene, dove è cresciuto, sicuramente lo può aiutare. Non c'è bisogno di correre, perché comunque ha 20 anni davanti di carriera, ma capisco anche Raiola che sa bene il suo fatto e fa guadagnare i suoi assistiti un sacco di soldi, porta top club, però io a posto di Gigio comunque sarei rimasto ancora un po' in Milan. Per riconoscenza, per la sua crescita e penso anche perché comunque, se non vado errato, gli hanno offerto anche un contratto, un bel contratto. Ecco. Allora, questo era Mihajlovic. Quanto chiedo io a Marco Amelia? Magari la mia opinione è impopolare, però un ragazzino di 18 anni, compiuto il 25 di febbraio, dice al suo manager, che è l'uomo, il insomma, gran visir dei procuratori, su questa vicenda mi affido, mi metto nelle tue mani, quindi è troppo grande per me. Non è sbagliato questo ragionamento, Marco? No, giustissimo. Io credo che tutta la famiglia di Gigio abbia preso questo tipo di decisione e si sta affidando comunque a una persona che magari può sembrare da fuori chissà cosa, ma Mino fa gli interessi veri dei ragazzi, lo abbiamo visto. Pure i suoi, sì, Sì, sì, i suoi sono di conseguenza, è normale che uno si fa l'interesse del giocatore, di conseguenza è quello del manager. Però io, in questa situazione Mino sta facendo gli interessi soprattutto dal punto di vista del rispetto che ci deve essere sul giocatore, perché leggendo, sentendo la sua intervista, le parole, lui dice non è questione di soldi, perché i soldi li può prendere da qualsiasi parte, è una questione di modi. E i modi probabilmente non sono piaciuti, i tempi forse non sono piaciuti, si poteva secondo me far prima oppure secondo me aspettare la fine dell'europeo, e forse la soluzione migliore era proprio aspettare la fine dell'europeo, chiamare il ragazzo, dico stai a seguire, no, stai tranquillo, pensa all'europeo, devi fare il top, devi fare il meglio, alla fine dell'europeo ci siederemo e prenderemo una decisione tutti insieme. Questo è il modo non è quello di dire o firmi o niente. Probabilmente questo ha dato altamente fastidio. Sei d'accordo, Pardo? Ha sbagliato? È una chiave molto interessante. Io sono d'accordo, innanzitutto sono d'accordo sul consiglio che anch'io, il consiglio l'ho richiesto, che come sapete darei a Donnarumma, che è quello di Marco, quello di Sinisa, Mihajlovic. Probabilmente c'è questo elemento. Però allora se è questo, allora dobbiamo leggere in questa maniera le parole di queste ore che arrivano dagli ambienti rossoneri, insomma la sensazione che le porte siano aperte, che c'è ancora la possibilità di ricucire, ovviamente è troppo importante per il Milan farlo, quindi Milan lo fa essenzialmente per la sua convenienza, perché se Donnarumma non rinnova è una perdita economica pazzesca, al massimo a 15 milioni, sì, te li regalano cioè, ti fanno un favore. Io posso anche dire una cosa: se Gigio non dovesse rinnovare, questa è una società che spenderà molti milioni per comprare il Milan, e non credo gli servino i soldi della sua cessione. Io Gigio lo faccio giocare fino a scadenza di contratto. Non lo so Marco. Sì, è una condizione, però io lo porto giusto. È diritto del Milan, insomma, sì. Dire, non so, è chiaro che è una vittoria di Pirro, però dire ti giochi l'anno prima dei mondiali va in primavera, mi dispiace. Io lo porto, lo faccio giocare, cioè io non mi importa, me lo sfrutto fino all'ultimo se lui non mi dovesse rinnovare, perché ho diritto, ripeto, questa è una società che non ha bisogno dei 30, dei 40 milioni della sua cessione. E questa è una società che ha bisogno in questo momento di mettere le basi solide, e poi chissà, non rinnova adesso, può rinnovare anche durante l'anno, non si può mai sapere, se dipende quello che poi farà anche il club, gli acquisti li sta facendo, si sta muovendo molto bene da questo punto di vista. Prima aveva ragione Raiola nel dire non so con chi parlare, il Milan sta vivendo un anno difficile, ripeto, a Donnarumma non si chiede di fare la bandiera a vita, ma di fare il simbolo di questo particolare momento del club. Marco, ti chiedo ancora una cosa rapida, tu hai vissuto tanti spogliatoi nella tua carriera, hai giocato in tante grandi squadre. Allora, due spogliatoi, quello dell'Under 21, quanto può risentire della vicenda Donnarumma in questi europei? Quello della Juventus, sono uscite molte voci su quanto è successo nell'intervallo di Cardiff, Bonucci ha smentito, la società no, però può essere una chiave di lettura. Beh sì, intanto l'Under 21, io credo che lo spogliatoio, anzi, ne può risentire poco, perché comunque sanno tutti che Gigi è importante per la squadra, mi sembra un gruppo molto amalgamato. Quindi sono sicuro anche gli stessi ragazzi, gli stessi colleghi di Donnarumma sono lì ad aiutare il ragazzo, perché ripeto, l'ha detto Mihajlovic, c'è sempre un ragazzino di 18 anni, nonostante sembra che abbia 30. E mentre per quello che riguarda la Juve sono uscite queste situazioni, e purtroppo nel calcio e negli spettatori succedono anche questo tipo di situazioni. E la Juve è forte, soprattutto a tenerle, diciamo, nascoste, e poi tante volte vengono fuori perché poi qualcuno le tira fuori, però ne risenti poco, perché quando riparti riparti da zero, metti le regole, se qualcuno si comporta male paga, te lo fai pagare, poi gli altri ci pensano. Quindi adesso in questo momento la società dovrà e prenderà dei provvedimenti in maniera anche silenziosa, senza farlo vedere, in maniera tale che tutto il gruppo che poi ripartirà da luglio si rimetterà in carreggiata per riprovare, ripensare quello che stava facendo quest'anno, cioè giocarsi per vincere la Champions e poi riconfermarsi in campionato e in Coppa. Quindi questo credo è quello che farà la società. Sì, questo lo farà certamente la società, che comunque non ha smentito, la società che sta zitta in questo particolare momento, società di cui parleremo. Grazie Marco, grazie di essere stato con noi. Grazie a voi. Marco Amelia, di cui parleremo, perché ci sono vari argomenti intorno alla Juventus. subito dopo la borsa. Oggi, questa settimana, abbiamo deciso di fare il giro dei tifosi illustri per chiedere come stanno vivendo. Ci sono diversi argomenti intorno alla Juventus. Ne parleremo dopo la borsa, ma ne parleremo anche dopo il GR, perché c'è una cosa che è uscita ieri dalla FIFA. Juventus sotto inchiesta per la gestione di Pogba. Berinazzo ci spiega tutto dopo il GR. Intanto andiamo con ordine borsa. Ad avere i soldi di Inzaghi, ad avere i soldi di Pippo Gol. Tutti convocati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti convocati. Mi ricorda il nostro autore Giorgio De Luca che siamo ripresi, quindi fare attenzione. Potete vederci sulla pagina Facebook di Radio 24 e di Tutti Convocati e su Facebook stesso, naturalmente. Pierluigi Pardo sta facendo sport estremi, dove sta giocando a golf. Dove sì, sei, Marco, Pier? Al Marco Simone, a Roma, un posto, tra sì, l'altro la sede della Ryder Cup del 2022. Ah, ma sei con Montali allora? No, con Massimo Caputi, che però è andato via Massimo prima oggi, perché ho ottenuto sì, grande spettacolo, devo dire. Scoperto che anche Condò è golfista. Qua, siamo anche Condò, io lo sapevo. Sapevo che Condò. Non lo sapevo. Grande spettacolo, bellissimo. Beato te, mio caro, non ti stancare troppo. Mi raccomando, non ti stancare troppo. Sentiamo subito Giovanni da Udine e poi vi presento lo juventino di turno, ben noto. Giovanni, buongiorno. Giovanni da Udine. Giovanni da Udine, dove è scappato? Non c'è più. Vabbè, allora, ciao Massimo Zampini. Ciao, buon pomeriggio a voi. Ciao Massimo Zampini, che ieri ha cinguettato multe, cessioni, litigi, smobilitazione, quel periodo di giugno ogni anno in cui gli anti-juventini gongolano e alcuni juventini piangono. Non credo che tu sia tra quelli che stanno piangendo, no? No, io trovo delle analogie tra i vari finali di stagione, al di là delle ironie su chi vince lo scudetto d'agosto, non era questo il messaggio, però trovo anche in molti tifosi della Juve e ancora di più negli anti-juventini quel momento di fine stagione in cui 10-20 giorni dopo, una volta partono Tevez e Vidal, un'altra Pogba, un'altra sembra che l'allenato Conte ci lascia a metà luglio e allora sembra che dobbiamo finire quinti campionati, no, poi si vedrà, prima o poi non vinceremo, però non è... Prima o poi con calma. Lì ti ho consolato io. Come? Zampini, lì è stato l'unico momento in cui Zampini ha vacillato dopo quella di Conte. Quella di Conte. Una telefonata dalla Liguria in cui non assicuravo sul fatto che... Ma devo dire che quel giorno, in effetti, quel giorno, un po' perché con Agnelli e Marotta, ma associavamo davvero molto Conte, e lo associo ancora, alla rinascita, è un po', cioè, che la Juventus cambia allenatore o che lui si dimetta, insomma, a metà luglio, al ritiro iniziato da pochi giorni, era una cosa che effettivamente sembrava fosse il preludio di una stagione. Invece all'anno dopo hanno perso la finale di Champions e basta, alla fine contro il Barcellona, e hanno vinto tutto il resto. Come quest'anno, peraltro. Come quest'anno, peraltro, ma Pardo non c'era a consolarti a Cardiff. No, per, non c'era. Non c'era, non mi, ma raccontato Cruciani... Era dura consolarlo. Penso fosse dura, ma ha raccontato Cruciani che si è chiuso in una stanza d'albergo, o sbaglio? Cruciani, eravamo a cena più che altro dopo, sia nel pomeriggio prima sia a cena dopo insieme, ha fatto questa seduta collettiva di un po' di juventini, miei amici, ha raccolto un po' di sguardi, di impressioni. Lo so, era dura, diceva Pardo, era dura, sarebbe stata dura consolarlo lì. Beh, Cardiff, sì, ragazzi, Cardiff è una grande delusione, Cardiff è una grande sconfitta, mentre Berlino è stata una sconfitta molto onorevole, Cardiff è stata veramente una delusione pesante, insomma, ma l'ha detto lo stesso Buffon, insomma, c'è modo e modo di perdere, poi certamente non cambia niente, ovviamente sono solo per i vincitori, però insomma io sono convinto che poi ci sia invece una maniera, quella di Berlino. Anch'io, è stata per me c'è modo e modo, ma certo, è ovvio, il famoso tweet che ho fatto, quella Cardiff è stata testa bassissima, questo è evidente. Certo, ma anche perché insomma si è andati là con un altro feeling, no? Cioè quello di portare a casa sta benedetta coppa. Ma io sono anche convinto del fatto che se la Juventus avesse vinto quella famosa di con l'Amburgo, poi da lì la scimmia non ne sarebbe salita sulla spalla. Retroscena di Cardiff tra conferme e smentite sul Massimo, su quel ribollire dello spogliatoio. Bonucci ha smentito, ma la società sta zitta su questo come su molti altri argomenti. Sì, esatto, ma molti però confermano. No, io credo che qualcosa sia potuto accadere. Certo. Sinceramente, detto tra noi, forse sono un po' cinico come tifoso, ma mi interessa il giusto, un po' perché giusto, oggi non si può fare niente, e un po' perché mi sembrano molto delle ricostruzioni fatte ex post per cercare, cioè qual è la cosa che diciamo tutti, nell'intervallo la Juve è sparita. E allora che si fa, come il Milan contro il Liverpool, la famosa notte di Istanbul, e allora dopo si è detto il Milan stava già festeggiando. E invece non è vero, abbiamo un testimone oculare, e quindi io penso che chissà in quanti intervalli, dico uno mi accaso davvero, quelli fatti questi giorni, Bonucci avrà detto a Dybala svegliati, o qualcuno avrà detto, cioè io penso che non ci sia proprio nulla di strano, magari si perdessero, vincessero le partite perché negli spogliatoi. No, ma una ragione la cerchi sempre, no? Cioè una ragione, sì, esatto, se quasi non litigare per battere Real Madrid. Com'è? Bastasse non litigare nello spogliatoio per battere Real Madrid. Ma chiaro, Pierluigi, però sai, una spiegazione proprio quella ex post, cioè una ricostruzione fatta perché chiaramente è successo qualcosa di misterioso, non appunto, tempo, appunto, partita, appunto, quindi in quei giorni immediatamente successivi anche noi, no, il tema era il mistero, alla fine qualcuno a questo mistero gli dà una prova a dare una spiegazione, ma mistero resta comunque, per come ha giocato la Juventus quel secondo tempo, rimane comunque qualcosa di misterioso. Posso chiedere a proposito del signor Agricola, ieri tra l'altro poi un ascoltatore mi ha chiamato, mi ha tolto quasi la laurea in economia, e quindi non voglio evitare gaffe dal punto di vista giurisprudenza, vuoi ricordare la vicenda? Condannato in primo grado, assolto in secondo, guarda intanto la Cassazione. No, aspetta, non mi interessa, perché se poi tu entri e io non finisco, poi mi dicono che sono assolto. Certo. Poi ricordiamo che la Cassazione è intervenuta e ha rigettato il giudizio di assoluzione che c'era stato in appello, e poi c'è stata la prescrizione. Ho detto giusto tutto, Genta? Giusto tutto, perfetto. 25 me lo porto a casa, 25 no, in diritto, quello certamente. Quello che mi interessa invece di più, al di là di non rifare il processo 10 anni dopo all'Agricola, è capire dal tuo punto di vista che cos'è questa scelta. La mia sensazione è che questa qui è una vicenda più che altro di opportunità e di comunicazione. E quindi io non posso far altro che pensare che alla fine poi la Juve, la dirigenza della Juve, quella vicenda lì, quegli anni lì, non li voglia proprio nascondere. Crosetti l'altro giorno parlava di oblio, cioè non li voglia nascondere, li voglia in qualche modo, cioè se ne freghi delle possibili polemiche che possono nascere, che sono nate in queste ore. Però volevo sentire che ne pensi tu. Ti allora, piace questa scelta? Aspetta, aumentiamo la suspense. Massimo Zampini, stai lì, traffico e dopo la risposta. I love this game. Tutti convocati. Faircam Logistics, gli specialisti per la tua supply chain. Scopri di più su faircam.com. Vi presenta. Tutti convocati. Allora, la domanda di Pierluigi Pardo era totalmente pertinente, la ricordiamo da questa pausa piuttosto lunga. La Juve torna antipatica sostanzialmente, è una questione di comunicazione, però richiamare Agricola anche per questioni di opportunità va spiegato, perché non è un nome qualunque. Zampini. Sì, ora a me non l'hanno spiegato, quindi io posso dare la mia. No, ma a nessuno. Cioè no, esatto, ma può darsi anche che poi ci siano appunto dei motivi che ora poi ci spiegheranno magari loro, quindi io ti posso dire la mia, diciamo, da tifoso. E allora, intanto considero comunque legittima la questione, rispetto ad altre questioni molto, molto, molto, molto, molto faziose e strumentali. Qua appunto la domanda comunque legittima, dici tra i tanti, anche alcuni juventini si dicono tra i tanti si possono scegliere, anche se non è stato condannato, prescritto, assolto, quello che è. Dice perché proprio lui? Certo. Però secondo me la Juve di suo, quindi la domanda per mettere legittima, la Juve di suo è una società che non si è, a mio parere, mai posta, ma io dico anche legittimamente, essendo di cosa della Juventus, ma non si è mai posto questo genere di questione. Cioè, se si può fare, ricordiamo una cosa, no, che Agricola non è questione, allora per non Luigi, lo so, l'opportunità non, tu dici no, ma allora gli juventini, tu scrivi nel tweet, gli anti-juventini gongorano e alcuni juventini piangono. In questo caso si è dato adito, possibilità a molti anti-juventini, no Pierluigi, di giustamente ma di Massimo ha ragione, casino. Cioè, la Juve spiega diciamo della captatio benevolenza degli altri tifosi. Non so, Massimo, correggimi se sbaglio. Sì, sì, no, no, esattamente. Cioè è completamente impermeabile a questo tema. Cioè, l'obiettivo della Juve è vincere le partite, i campionati. Voglio dire, è un contesto completamente diverso, perché ci mancherebbe altro. Poi lì c'era pure un cartellino di vendita per Higuain e per Pjanic. Però insomma, anche il fatto di andare a comprare i giocatori della seconda e della terza in classifica è una cosa che dal punto di vista strettamente, no, della conquista delle simpatie non aiuta. Vabbè, quello è... Però, no, quello infatti, ma... però è diverso, eh. È esattamente certo così, però vi dico certo è diverso. No, no, ma però... è giusto secondo me l'analisi di Pier in generale è giusta, cioè la Juventus, quello che è legittimo, vincere certo l'obiettivo, legittimamente secondo me lo fa. Sull'opportunità, il punto è che Agricola è stato medico alla Juventus fino al 2009, cioè quello che sembra è che dopo le sentenze, cose, Agricola fosse stato cacciato ignominiosamente, invece no, cioè Agricola è stato il medico della Juve, che non è stato comunque, ripeto, condannato, eccetera, eccetera. Ma il punto qual è, secondo me? È sempre come trattiamo le cose. Cioè, come io vi ho detto, è legittima la domanda di Pierre, la vostra questione, e anche la domanda di tanti anti-juventini e di tanti juventini. Io dico, ma la stessa domanda ce la siamo posta, appunto, sull'Oriali di turno, che invece tutti, che sta in nazionale e ha una sentenza, lui sì, è definitiva, cioè senza prescrizione, cosa, un patteggiamento, diciamo, che attesta che ci sono state le regolarità nei suoi passaporti, falsificare i passaporti, eccetera, eccetera. Ma io personalmente però mai mi sognerei di dire all'Inter: tu non devi richiamare Oriali nella società perché c'è stato 20 anni fa questa cosa. C'è una mentalità invece, non solo nel calcio, lo sappiamo bene, per la quale stiamo a pensare che... Massimo, permettimi, sono vicende un po' diverse. Torniamo ai Rolex di Sensi, a queste storie qui. Quella, beh, insomma, c'è la sentenza che dice che qualcuno cosa... ha falsificato i passaporti. Cioè, non no, so se sia una cosa, vabbè, da ma sai, lì non la chiudiamo più, perché tra poco riapriamo calcio. Ma è la più banale, molto il punto, la più banale. Io non chiedo la Juve, Massimo Zampini, persona, tra l'altro, stimo, che è amica mia, se questa scelta qui gli è piaciuta. Oppure se la sarebbe risparmiata, al netto del fatto, no, che poi oppure se ne frega. Questa, okay. No, al fatto che se è stata fatta, poi ricordiamo che J Medical non è strettamente riferita alla Juve. Esatto, no, anche no, così, sì, certo. Però sì, però dai. No, come, no, infatti, c'è questo, no, lo diciamo come informazione. Non sto informazione. Parlando di diritto, non sto parlando di diritto. No, no, certo, di comunicazione, di quello che tu vuoi comunicare. Che è un po' lo stesso discorso dell'ostentare i famosi due scudetti. Esatto, cioè la stessa questione. È la stessa filosofia lì, no? Che praticamente ti porta quasi a ribadire, quasi a rivendicare, in certi momenti quasi a urlare, alcuni momenti indiscutibilmente controversi, poi si può essere da una parte o dall'altra, ma indiscutibilmente controversi. Ma ripeto, è legittima, la decisione è legittima, così come è legittimo però pensare che magari chi non ha in simpatia alla Juve, anche con queste vicende qui, possa, tra virgolette, fomentare certo, la sua antipatia. Certo, questo è abbastanza normale, cioè... Secondo me va benissimo tutto, a patto poi di non meravigliarsi se quando poi si va a Cardiff ci sono i gufi e i gufi godono. No, ma questo, scusami, secondo me però questo, la Juve, anzi, l'hai detto bene, alimenta la forza della Juve. Tante volte parlando con i giocatori della Juve, anche in tante interviste, insomma, il fatto di sentirsi odiati è una parola grossa, quindi diciamo non lo usiamo. Sportivamente diciamo, non amati, considerati tra rivali, tra tanti avversari, spesso è stata una molla, uno stimolo sul quale la Juve ha costruito. Noi contro tutti. È quasi una strategia psicologica. Io sono arrivato a concludere che sia quasi una strategia psicologica. Quella no, ma io... Dimmi, Massimo. Io sono d'accordo appunto sull'analisi, secondo me perfetta iniziale soprattutto, ma anche questo finale della propria assenza totale di cercare captatio benevolenza o complimenti dai giornali o dai media. Però io l'esempio di Oriali, volevo solo chiarire questo, non l'ho fatto per fare la solita cosa, e allora quegli altri così... Mm-hmm. Era per dire, io personalmente non vivo il calcio ma anche la vita solamente pensando, che non vuol dire scredo, non avere una morale nella propria vita e tutto il resto, ma non lo vivo solamente in funzione di questo, mentre ormai c'è, no, una buona, ma questo, parte di mondo, vabbè, in Italia, sì, di malati ce ne sono tanti, però la domanda di Pierluigi è questa mossa, insomma, si tratta di un dottore che torna, ma non è un dottore qualunque. Poi i dottori non vincono le partite, e questo è un altro discorso. Sì, no, sarà mezzo però è una cosa che ti ha dato fastidio, non ti ha dato fastidio, non te ne frega nulla, o l'avresti chiarita? Ma dipende, perché c'è una, rispondo, sembra diplomatico, ma è la verità. Cioè, è come il discorso ostentare i due scudetti o tutte le altre frasi, vincere l'unica cosa. Cioè, il tifoso, probabilmente soprattutto il più morbido, preferirebbe sempre che non ci fosse nulla per cui venire attaccati. A me personalmente, se lo chiedi, non me ne frega niente. Quindi, se loro ritengono che Agricola sia il più adatto per il Jay Medical, nuova struttura medica della Juve, esperienza, eccetera, eccetera, certo non penso che vada là a dare delle bombe misteriose a dei poveri bambini e che chissà cosa succederà. Anche perché la sentenza, appunto, non l'abbiamo ricordata, ma non è che dica esattamente questo. Anche se viene ricordata, come ho visto battute sull'Epo, l'unica cosa assolutamente esclusa da ogni sentenza, eccetera, no, eccetera. No, no. Quindi... La vicenda giuridica è chiara, l'abbiamo chiarita, ne abbiamo parlato da tutte le parti. La Cassazione non giudica nulla, ha rigettato per un vizio di forma la sentenza di secondo grado che assolveva Agricola. C'era la prescrizione, Cassazione ha sottolineato che c'erano indizi di colpevolezza, perché questa è la verità. Però su questo, Massimo, tu hai ragione, non c'è da sospettare alcunché, probabilmente lo ritengono l'uomo giusto di esperienza per fare quel tipo di lavoro. Secondo me basta dirlo, basta, non, nient'altro, perché non è un nome qualunque, è inutile che facciamo finta di niente. Dai, volevo chiedere, abbiamo parlato per 14 minuti di questa roba, direi che possiamo passare oltre. Sì, sì, sì. Se volete, sì, sì, anche perché abbiamo ancora un minuto, esatto, scarso. La rivale ad oggi, 21 giugno, inizio dell'estate, la rivale del paura in campionato per l'anno prossimo. Dov'è? Napoli. Dovresti puntare su una. La rivale della Juve è probabilmente quella che ha chiuso meglio il campionato, è il Napoli, però sospetto che l'Inter, mi piace molto Spalletti, come anche Pier sa, e credo che l'Inter possa fare una squadra, vediamo, perché non ho ancora cominciato, bravo, ma è una squadra che sarà tosta. Questo è il vero mistero, quando comincia il mercato dell'Inter? Anche di questo parliamo dopo il GR, eh? Quando comincia il mercato dell'Inter? Ma anche il nostro, quando comincia? Anche il vostro, quando comincia? Intanto Dani Alves se ne va, questa è un'altra cosa che fa sghignazzare gli anti-juventini. Massimo Zampini, ti ringrazio. Pierluigi Pardo, mi raccomando, con il golf, perché domani alle 14 non farti trovare malato, non farti trovare raffreddato, cose così. Lo so, sai. Mi raccomando, cautelati. Ci sentiamo domani alle 14. Adesso ci fermiamo per il giornale radio e poi arriva Bellinazzo, non fisicamente ma al telefono, che ci racconta di un'altra grana della Juventus, perché la FIFA sta indagando sul trasferimento di Pogba dalla Juventus allo United. United assolto, Juventus vediamo, potrebbero esserci sanzioni, vi spieghiamo tutto dopo. Bene, allora siamo tutti convocati. Ma proprio tutti, tutti convocati. Quanto dipendiamo dalla tecnologia nel lavoro e nella vita di tutti i giorni? Sono Enrico Pagliarini e ogni settimana 2024 intervisto i protagonisti dell'innovazione tecnologica in Italia e nel mondo. Tutto quello che devi sapere sui social network, la pubblicità digitale, le nuove app e molto altro. 2024 è il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22, domenica alle 13.30 e in edizione podcast con tutte le interviste in versione integrale. Vuoi conoscere le dinamiche e tutti gli aspetti professionali del mondo della radio? Autore, redattore, conduttore, produzioni audio e declinazioni web e social. Se una di queste è la tua strada, sintonizzati e frequenta il Master Part-Time in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. Un percorso innovativo per fornire strumenti professionali a chi ha iniziato o vuole iniziare a lavorare nel mondo della radio. A tua disposizione i massimi esperti del settore per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it. Devo stare seduto in panchina a guardare. O puoi entrare in campo. Ricominciamo tutti ai nostri posti. E andiamo. Tutti convocati. E andiamo anche visualizzandoci su Facebook o sul sito di Radio 24, di tutti convocati, insomma dove volete potete guardarci se vi fa piacere, ascoltarci sarebbe opportuno, chiamarci pure 800 24 00 24, numero verde Hamilton che dichiara: potrei io ritirarmi? A fine anno potrei farlo, bah, mi viene abbastanza da ridere. Tra poco Berinazzo ci spiega tutto sui problemi Juventus, ma sono, insomma, dobbiamo parlarne ancora perché sono, è cronaca, sono fatti del giorno. La FIFA sta indagando, ha aperto una inchiesta su sul trasferimento di Pogba allo United. Vogliamo capirlo chiaramente quali sono, qual è questo problema. Emiliano, buongiorno. Tanto ascoltatore. Salve, buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Dica. Allora, argomento basket. Oh, che, che meraviglia. Sono un tifoso di pallacanestro, tra virgolette, atipico, perché risiedo in provincia di Caserta, ma sì, sono un tifoso da sempre dell'Olimpia Milano. Approfitto dello spazio che mi concedete. Quanti per anni fare ha? Complimenti a Vene. 40 anni. 40 anni dunque. Ho fatto in lei tempo, ha fatto da bimbo a, esatto, esatto, ha fatto il tifo, assaggiare i fatti della banda Bassotti, della Treser, no, della ma Coppa dei al di là di quello ha fatto in tempo a vivere la le storiche finali Milano Caserta, insomma, anche, e a tifare anche per la sponda opposta, che a Caserta non è affatto semplice, glielo assicuro. No, ma me lo posso pure immaginare, dica. Niente, allora approfitto dello spazio che gentilmente mi concedete per fare innanzitutto i complimenti a Venezia per la conquista dello scudetto. I miei complimenti vanno a Trento per la solidità, l'aggressività, la rabbia agonistica che hanno mostrato durante certo tutti i playoff, certo, veramente tanti complimenti a loro, anche per averci eliminato meritatamente. E sì, invito Milano, anche le dirigenze di Venezia e Trento a fare una chiamata al dottor Prodi, a ringraziarlo, perché grazie anche alle sue scelte scellerate durante il corso della stagione, o non scelte in certi casi, insomma, queste due società, anche grazie a lui, quindi verrei colpevole Livio Prodi, ma insomma colpevole fino a un certo punto. Milano è una non squadra che è costata un sacco di quattrini, e questo deve portare a qualche riflessione, non solo Prodi, ma chiunque faccia parte della società Olimpia Milano, che insomma tutti davano per ampiamente favorite, che ha dominato regolarmente. Insomma, queste storie le conosciamo tutte. Ci uniamo ovviamente ai complimenti per Venezia e pure per Trento, che ha giocato una straordinaria stagione. E andiamo a Livorno da Alessandro. Buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno a lei. Dottor Genta. Dottor Alessandro, buongiorno a lei. Livorno, città degli allenatori. Sono un libertastino puro sangue. Eccola. Ho vinto 3-0 il derby con la PL. Con la TL? PL al Palaliende. Siamo in Serie B alla grande, faremo un campionato strepitoso. No, a parte tutto, complimenti a De Raffaele, perché si è dimostrato ancora una volta veramente un signor allenatore. Io l'unico appunto che le devo fare, perché io la seguo tutti i giorni, ma perché non si parla un po' più di basket? È una sua trasmissione. Guardi, io insomma il basket è lo sport del mio cuore, quindi lo farei. Il basket è vita. Il basket è un sacco di cose. Il basket è un sacco di cose. Insomma, noi ne parliamo già abbastanza. Ne parliamo già abbastanza. Sarebbe bello farlo di più. Poi ci sono ragioni di cassetta di altro tipo che ci portano a spaziare qua e là. Insomma, parliamo di bacini di utenza. Va bene, parliamo di bacini di utenza. Io parlerei di basket sempre. L'ultima che le chiedo io. L'ultima cosa, Lei ha vinto lo scudetto o no? Ha mai vinto uno scudetto? Va bene, diciamo che nel cuore l'abbiamo vinto. Ecco, diciamo così, la Juventus esibisce quegli scudetti, Livorno non esibisce nessuno scudetto, però c'è quello lì che balla, che insomma fa parte della leggenda dello sport italiano. Dica. No, l'ultima cosa che devo chiedere da buon intenditore, quale la ritengo. Non so se è una cosa che mi sono accorto di mal sbaglio o si sta giocando sempre di più senza un vero centro nella pallacanestro moderna. Sì, non sbaglia, però se ci fa caso, in Eurolega per vincere servono i centroni, serve la fisicità. E guardando all'NBA, che è poi quello che arriverà, magari il trend che arriverà più tardi, il centrone comincia a tornare ad essere importante dopo l'epoca in cui faceva solo i blocchi. Quindi questo è un po' il trend attuale. Però in Europa, senza il centro forte grosso fai fatica a vincere, senza la stazza fai fatica a vincere. Stazza di Marco Belinazzo dopo l'attesa di ieri nel parcheggio. Buongiorno Marco Belinazzo, da Sole 24 buongiorno. Ore. So tutto, libero, finalmente. So tutto, però ho parlato prima con la tua signora, però sei stato lì 6 ore. Sei anche arrabbiato perché ho fatto outing, ma io mi sono divertito. 5 ore e mezza, perdonami Marco, perdonami. Possiamo lanciare un appello a, insomma, agli auto attrezzi, carro attrezzi a far prima, a svegliarsi. Insomma, non mi potete lasciare Belinazzo mollato lì 6 ore con la macchina rotta, ragazzi. Altro. Alla fine abbiamo risolto, bisogna essere positivi. Vabbè, meno male che oggi sei arrivato in tempo per la presentazione del tuo libro oggi. Questo è l'aspetto da non sottovalutare, diciamo così. Diciamo così. Vabbè, senti Marco, la Juve ha ricevuto nei giorni scorsi la notifica formale dell'inchiesta aperta dalla FIFA sul trasferimento di Pogba allo United. Che succede? Che è successo? United assolto. Per l'altro fronte, inchiesta aperta. Me la racconti questa? Beh, tutto nasce dall'abolizione di quelle famigerate TPO, partnership, cioè in poche parole l'acquisto di una quota del cartellino da parte di soggetti diversi dal club o dallo stesso giocatore, quindi fondi di investimento oppure procuratori molto svegli che quindi puntavano una fiche sostanziosa sulla rivalutazione del calciatore, sulla plusvalenza da realizzare in caso di cessione. Operazioni che sono state discusse e vietate formalmente dalla FIFA dal 1 maggio 2015, salvo una serie poi di proroghe per i contratti in essere. Sì. Detto ciò, la mega commissione percepita da Mino Raiola nel caso della cessione di Pogba, per la sua consistenza lascia pensare che ci sia, almeno questa è l'opinione della FIFA, che dietro appunto questa mega commissione in realtà ci sia una vera e propria TPO, quindi che Raiola avesse una percentuale del cartellino di Pogba nella propria disponibilità e che quindi quella commissione sia stata, come dire, versata e pagata anche per far fronte a questa sappiamo di quanti soldi stiamo parlando, grosso modo. È fatta sull'operazione da 105 milioni complessiva. Raiola ha beccato 20-25 milioni dalla Juve, poco più poco meno insomma dal Manchester United, qualcosina da piccioli da Pogba, quasi 40 milioni insomma secondo le ultime ricostruzioni. Complimenti. Per cui diciamo è la mega commissione del secolo. Sì, cioè, la mega commissione del secolo, ma Mino Raiola rimane. Non farmi il pardo, non ti sento. Spostati. So quali iperbole usare per definire questa mega commissione del nostro caro Raiola, però io ho l'impressione, ecco, che al di là della questione ora giuridica la Juve farà le sue controdeduzioni, ma penso insomma che la FIFA, spaventata dal caso Donnarumma, quindi dalla possibilità di una replica di questa situazione, abbia voluto lanciare un messaggio più che alla Juve, allo stesso Raiola, perché certo, insomma, poi sarà difficile andare a dimostrare che quello è chiaro. Non ti sento benissimo, ti aspetto qui presto, però una cosa te la devo chiedere al volo. Tutti stanno aspettando il mercato, che cominci il mercato della Roma e dell'Inter. Ora Salah è praticamente andato a Liverpool per 40 milioni, fa le visite mediche, quindi per la scadenza del 30 giugno le richieste della FIFA dovrebbero essere coperte. Quanto all'Inter, che succede? Tutto congelato fino al 30 giugno o inizierà il faraonico mercato, i fuochi d'artificio di Suning? Ma guarda, semplicemente l'Inter deve chiudere con un pareggio al 30 giugno e quindi ha bisogno di fare quelle operazioni in entrata che siano necessarie e sufficienti a raggiungere questo risultato, quindi dipenderà da quanti contratti commerciali su Ningo e sui partner avranno garantito al club nerazzurro. Sì. Dopodiché l'Inter non è che potrà, diciamo, spendere e spandere a proprio piacimento, ma sarà come gli altri club, potrà giocare ad armi pari, ed è chiaro che lì quell'incremento di fatturato che Suning può garantire si potrà tutto spendere, cioè, sì, in cassettini e in monte ingaggi, per cui dopo il 30 giugno potremo vedere la vera forza di Cioè, quando, allora facciamo così, quando al bar mi chiedono ma quando comincia il mercato dell'Inter, io rispondo, Belinazzo mi ha detto dopo il 30 giugno, ok? Sì, facciamo così? Modo. Va bene, perfetto. Marco, ti aspetto presto. Buona giornata, buona giornata Marco Belinazzo. Io torno agli ascoltatori, 800 24 00 24, il numero verde. Tra poco torniamo su altri argomenti, perché lo scudetto di Venezia ha suscitato pure qualche polemichetta su un altro fronte politico. Tra poco vi spiego tutto con un mio amico Arturo da Napoli. Buongiorno Arturo. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno, ciao Carlo. Ciao, un saluto ciao, particolare Carlo. A Pardo che non c'è, ma... ciao. Forse non mi senti bene, purtroppo. No, ti sento bene. Ok, perfetto. Niente, a parte ti trascorso dai tempi, parla Spitti, con Carlo Suarez, il maestro che era... Uno. Adesso non te sento però, Arturo. Arturo. Arturo, non ti sento. Arturo, adesso non ti sento più, mi spiace. Magari riproviamoci. Se avevo un altro ascoltatore che mi è caduto e niente. Chi è che c'è? Chi è in linea? Chi parla? Allora, pronto? Pronto? Ho chiamato prima. No? Allora, Fernando da Chieti. Fernando, no, da Chieti, da Giulianova. Che da più bello. Giulianova, che è più bello, va bene. Ascolti, no, ho sentito un po' la trasmissione, io ogni giorno la sento e tante volte mi viene la voglia di dire qualcosina. Lo faccia, prima di Juve, lo faccia tutti, anche tutti i giorni, non c'è mica problema. Siamo... Bene, no, ma poi io non voglio rompere, ma anche non se avrei qualcosina da dire. Non rompe affatto, libero. Bravo. Spazio radiofonico, allora, libero spazio dell'aria questo. Ma poi dica. Mi piacete perché voi... Siete veramente in gamba. Belli e bravi, allora, dica. Parlavamo della Juve, no? Si parlava prima della Juve. Dunque, la Juve, poverina, c'ha dei problemi, è antipatica. Perché? Perché ha vinto 35-36 scudetti. E sono eternamente affamati. Praticamente, gente che prende 10, 15, 20 milioni l'anno, però sono affamati, ma non hanno un'osteria dove andare a mangiare, capito? Allora la gente comincia a averne quasi abbastanza, magari poi in Italia sono dei mostri, vanno all'estero, sono dei moscerini. Sì, quando vince una coppa, se non ci stai morti... Allora, sta facendo un po' di parafrasi che io faccio un po' fatica a seguirla. Ho capito che la Juventus non le sta simpatica, non trovano le osterie dove mangiare, no, credo che le trovino, anche i ristoranti da 100 euro ormai, visto che il budget è molto aumentato. In Europa sono dei moscerini, i moscerini insomma non vanno magari in finale di Champions League, poi magari le perdono, però non vanno in finale di Champions League, non mi sembrano poi così moscerini in Europa negli ultimi anni. In ogni caso torni a chiamarci, per carità. Adesso però andiamo un po' di corsa, perché il mio amico con cui volevo spiegarvi una certa storia, anzi tante storie, è Guido Bagatta. Ciao Guido, buongiorno a tutti. Buongiorno anche a lei. Intanto ti hanno ceduto i due ragazzini più forti, li hanno mandati via dalla tua Sampdoria. Schick, che gioca contro l'Italia stasera, e c'è poi il terzino di cui non mi ricordo il nome perché è difficile, ma tu lo sai già. Skinner. Anche lui è andato? Anche lui è andato. Beh, basta, sta andando all'Inter. Vabbè, ragazzi, l'avevamo già detto, no? È quello che aveva capito da Molo Udinese, ha capito Cairo da qualche anno, e tanto non vincerai mai. Se fai una squadra decente per stare in Serie A e magari ti capita anche la botta che vai in Europa League, però nello stesso tempo porti a casa X decine di milioni di euro. Infatti. Tanto non vinci mai, e non arrivi nelle prime tre neppure, quindi non vai neanche in Europa League. Scusami, non vai neanche in No, l'importante è divertirsi, Guido. Questa è una politica che pratica anche il Napoli, magari ad un livello diverso, però la pratica anche la Juventus. Stiamo parlando di Pogba, insomma, il mercato globale è questo. Poi comunque la legge, Carlo, la legge è questa: se un giocatore, al di là di quanto ti offrono, se un giocatore non vuole rimanere, non puoi tenerlo. Ma lo sappiamo in tutti gli sport, Guido. Ma in qualsiasi sport, quindi non dire che la gente si scandalizzi. Non voleva rimanere alla Juve. Ma sì, ha trovato anche gli ha dato 100 milioni. Esatto, arrivederci, grazie. Certo, anche Zidane non voleva rimanere alla Juve perché sua moglie voleva andare al mare, infatti è andata a Madrid dove c'era una spiaggia meravigliosa. Senti, ieri sera eri a Venezia a vedere no, questo... A Trento. Sì, scusami, a Trento, Venezia è quella che ha vinto lo scudetto. Eri a Trento a vedere lo scudetto di Venezia, ad assistere allo scudetto di Venezia, storico dopo 74 anni, ma ti ha colpito, ti ha colpito qualche assenza, mi pare. Perché? Mi ha colpito l'assenza speciale della Federazione Basket. Scusami, non sono quelli che la Federbasket, Petrucci, non sono quelli che insomma regolano il campionato, non sono una federazione. Allora, detto che secondo me Petrucci è un grande professionista, che tra l'altro un presidente che di basket ne sa, perché ha fatto tutte le trafile bene. Così. Pecoli è una parte. Sono rimasto sorpreso che né lui né un suo vice fosse venuto a gara 6, dove si poteva presumere che venisse assegnato lo scudetto, e poi comunque due giorni dopo c'era gara 7, quindi un vuoto di potere. C'era ovviamente Egidio Bianchi, presidente della Lega, c'erano tutti quelli della Lega, e che mi risulti se non il vicepresidente, comunque un rappresentante del comitato regionale, non c'era il numero 1 Petrucci, non c'era neanche il numero 2, il numero 3, il numero 4, il numero 5, e neanche il 6. Io non so se sia un segnale, una distrazione o un impegno. Sai, distrazione. Petrucci è anche sindaco, non lo so. Sì, mi sembra, se fosse una distrazione sarebbe grave, se mi permetti. Mi piace però, perché è stata una grande festa del basket, tra l'altro una volta tanto, ho detto vinto in trasferta da Venezia, meritatissimo, perché comunque ha fatto uno squadrone Venezia, è la squadra con la rotazione più profonda, aveva 13 giocatori tutti in grado di giocare e doveva metterne due fuori squadra ogni volta che scendeva in campo. Di fronte a un pubblico clamorosamente fresco come quello di Trento, che è stato lì ad applaudire i suoi, ha visto la premiazione di Venezia, quindi un ambiente che dovrebbe augurarsi per tutte le volte, rispetto a tanti altri, senza far nomi, posti dove la squadra ospite viene bersagliata, immagini, vincere uno scudetto in trasferta, fino adesso era stato quasi fuggi e festeggi nello spogliatoio. Sì. Venezia ha festeggiato in mezzo al campo con tutti che applaudivano. Visto che l'abbiamo ricordato come con De Raffaele prima, anche Milano era rimasta a festeggiare in mezzo al campo a Livorno, no? Come da grande, Walter Cook ha avuto la sua rivista anche lui. Ha avuto, certo. E anche Alberto Tonut. Alberto Tonut che non l'ha vinto da giocatore, ma l'ha vinto da papà. Esatto, cavolo, io non l'ho mai vinto, mio figlio a 24 anni ci è arrivato. Però comunque tanto di cappello l'altro di Raffaele, ricordiamo, è subentrato in corso 2 anni fa, sale calcati, quindi è un mito, è quasi in punta di piedi. Devo dire qui l'abilità, poi stiamo magari scendendo in particolare che al grande pubblico che non segue il basket non interessa, l'abilità di Casarin, di Federico Casarin, che è il presidente della squadra, di vedere in De Raffaele, nell'assistente, quello che poteva portare questa squadra, e consigliare a Brugnaro, che è un presidente proprietario super presente, mosse giuste. Lì funziona tutto, a differenza di quanto capita a Milano, lì funziona tutto, infatti il risultato è stato questo. Ma che De Raffaele fosse un eccellente tecnico, lo sapevamo noi che seguiamo questo meraviglioso sport. Senti, vado un po' di corsa, voglio chiederti, vinci il campionato ma non fai la Coppa dei Campioni? Proprio, allora, stiamo scherzando, l'unico sport al mondo dove la squadra che vince il campionato, vogliamo dire il terzo campionato d'Europa o il quarto dopo Spagna, Grecia e Turchia, mettilo così, quarto campionato d'Europa, la squadra che vince non ha diritto a partecipare all'Eurolega, che ne dica la FIBA e la Coppa dei Campioni. Non esiste al mondo. Sì. Milano ha tutti i diritti di parteciparci, ma dovrebbe esserci uno spot, guarda, una white card. Potremmo discuterne molto a lungo, io ne avrei voglia, infatti ti convoco nei prossimi giorni, però mi sembra che l'Eurolega sia un'entità diversa, si sia strutturata strutturata magnificamente, come dovrebbe fare anche il calcio, cioè È un campionato a sé stante, e quindi questa è una discrasia da cui non riusciamo ad uscire nei 3 secondi che abbiamo ancora a disposizione. Io volevo parlare con te anche dello scambio di Bellinelli all'Atlanta, Dwight Howard, giocatore uno dei più sopravvalutati di sempre, che va a Charlotte, ce lo ricorderemo forse solo per quella schiacciata col mantello da Superman. Guido, torniamo a chiacchierare presto, preparati. Vabbè, non vuoi una sintesi dello scambio? Non lo vuoi? Dimmela allora, in 10 secondi. Bavar, svalutato, Belinelli, il fatto che continui ogni anno a cambiare squadra, forse inizialmente chi lo ha seguito, tranne la parente di San Antonio, non ha fatto il bene di un talento clamoroso come il Bailey, che meriterebbe di non venire palleggiato. È Atlanta da un tale Bazemore che fa canestro anche da casa sua mentre dorme, è leggermente chiuso. Grazie Guido, grazie. Un abbraccio a te, grazie Guido Bagatta. Chiudiamo qui, Giorgio Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Edoardo Lavezzari in redazione, ma torniamo domani alle 2, pronti? Per domani alle 2, insomma. Abbiamo visto abbastanza, ciao a tutti. Saluti!